e 51 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana nazionale più il dub da Terni, più il dub da Viterbo, più fra... aspettate un pochetto, dai, ci stiamo allargando piano piano. Lo streaming www.ondarossa.info, il sito, oppure i tanti repeater del segnale di Onda Rossa sul web. Come annunciato da elettrodo di prove tecniche di trasmissione, fra poco saremo, poco dopo la sigla, in contatto con Andrea, chitarrista di Cyclone, che suoneranno per la radio nell'ambito di Futopia, ma ne parliamo dopo, dai. Sabato prossimo 30 di giugno 2024. Per ora noi vi ricordiamo che è in essere il radioabbonamento di Radio Onda Rossa di Giror, proprio per le cose che dicevamo poc'anzi, cioè oltre al normale finanziamento della radio, come dicono i spot, abbiamo scelto il target di 37.000 euro perché abbiamo le spese anche per allargare, allungare larghezza, altezza, profondità dello spazio a tre dimensioni, quello che è il segnale della radio, e quindi in dub. Per ora dall'Alto Lazio e dall'Umbria. E questo ovviamente ha un costo. Oltre alle normali spese di Radio Onda Rossa, ma sapete, noi siamo molto migragnosi su questo, ce la siamo sempre fatta bastare quella che è la vostra sottoscrizione, continueremo a farlo, però insomma una cosa è farsela bastare, una cosa è non arrivare poi a poter sostenere le spese della radio, per cui un sussulto, daje. Andate sul sito www.ondarossa.info, in alto campeggia il bel logo di Sonno, ci cliccate dentro, sottoscrivete, fate il vostro piccolo contributo, piccolo aiuto, dovere per un'informazione come quella di Onda Rossa, cioè un'informazione di parte, l'abbiamo sempre detto, proclamato e denunciato. E cioè dalla parte degli oppressi, degli ultimi, di coloro che non hanno voce. I contatti della radio, il sito l'abbiamo detto, ci trovate pure tutto oltre allo streaming, tutti i podcast e le note, le trasmissioni, la storia della radio, insomma navigateci un po' dentro. E i podcast del palinsesto che avete perso durante la giornata in diretta. Dicevamo i contatti 06491750, tenetelo a mente, dal 1977 questo paro paro è. ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione della radio, oltre ovviamente ai social che vi permettono di mandare quel che vi interessa mandare alla radio. 25oclock@ondarossa.info, 25 scritto a numero, 25oclock@ondarossa.info, per molestare, per disturbare il sottoscritto. Did you get- 22:59, pronto? Ci sei, Andrea? Mi sa di no. Pronto, pronto, ci sei? Pronto, pronto, adesso ci sei? Eccomi. Niente, non riusciamo a metterci in contatto, non c'è niente da fare. Pronto, pronto. Aspetta, forse è un problema di livelli, vediamo se riusciamo. Allora, ecco, ci siamo, direi che ci siamo. Dai, eccomi, mi senti adesso? Niente, sì, va bene, ci siamo, Andrea, chitarrista, finalmente, siamo riusciti a metterci in contatto dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. Abbiamo l'onore e il piacere di presentare la serata di Futtopia, insomma, che comunque poi ci ha pensato Martis e lo spazio proprio di Futtopia, e ci penserà anche domani lo spazio di Futtopia, che viene curato qui sulle frequenze della radio. Noi ci occupiamo così della parte danzereccia della fine della serata con il concerto di Saglon, di cui abbiamo appunto Andrea. Presentati tu, presenta un po' il gruppo e vediamo. Certo. Poi vai. Intanto grazie di questo invito. Sono Andrea Camerini, cantante dei Saglon. Con me suoneranno al Forte Prenestino il 30 giugno alle ore 22 Andrea Pesaduro la chitarra, Paolo Camenini al contrabbasso e Roberto Berini la batteria. Saglon, siamo un gruppo nato verso la fine degli anni 80, nell'87, sì, addirittura, e siamo andati avanti facciamo puro psycho building, cioè quando abbiamo iniziato proprio pienamente coinvolti da questo genere che ci era arrivato, insomma, quasi casualmente con un disco dei Meteors e un altro disco dei Cramps. E così iniziamo a suonare questo rock and roll, diciamo, che non era tanto comune dalle nostre parti, insomma, era abbastanza un azzardo mettersi a suonare psychobilly alla fine degli anni Ottanta, insomma. Sì, in effetti a noi, diciamo, ci piacque molto il discorso che sentivamo, che dentro c'erano tante cose, tante contaminazioni, diciamo che era questo rock and roll mescolato al punk, rockabilly, però dentro anche con incursioni psichedeliche, dark, quindi, cioè, ci piaceva un po' questa apertura e soprattutto questa sperimentazione di questo suono ruvido, no? Molto, sì, ruvido. Psychobilly, che diciamo come senza andare poi nella dottrina che ci interessa abbastanza poco, no? Sì. Però attinge le sue radici alla musica rock and roll degli anni 50 e 60 essenzialmente, quindi da quello che era la base di Elvis Presley, Chuck Berry, eccetera, eccetera, ma soprattutto Johnny Cash. Anche infatti dal suono più oscuro, diciamo, più anche se vuoi, come dicevi tu, no? un po' più alterato, un po' più fuori sopra le righe, ecco. E poi passa per il frullatore del punk degli anni 70, quindi i Gramps, come dicevi te, eccetera. Esatto. Anche forse anche qualcosa di tutti quei gruppi garage tipo Sonics, no? Sì. Queste cose molto grezze, molto. Ma insomma, sì, belle. Diciamo la prima c'è una storia lunga, insomma, c'è una storia lunga per quanto poi abbia adesso ottenuto. Adesso, negli ultimi, da quando avete cominciato a suonare voi, e un po' più tardi, ha assunto delle sonorità abbastanza poi circoscritte, insomma, abbastanza. Poi ognuno ovviamente ha il suo modo, no? di suonare psychobilly o rockabilly, però insomma ormai il genere si è abbastanza definito, quindi così quali sono state appunto le motivazioni, così per farti aiutarti anche un po' cercando di ordinare, ma io sono un disordinato, quindi di mio, quindi probabilmente creerò confusione. Però quali sono state le motivazioni, quindi, per cui da Pischelli avete cominciato a suonare psychobilly, e quelli ce le stavi dicendo, poi c'è una pausa, un buco, a quanto ho capito, ce lo racconterai, e quali sono state le motivazioni per riprendere il discorso psychobilly invece a 30 anni di distanza, insomma, cosa è cambiato, cosa è rimasto lo stesso, cosa non avevate fatto in precedenza che invece era urgente risolvere. Vai. Certo, ma guarda, appunto, diciamo i Saigon nel 1994 appunto abbiamo poi terminato il gruppo, si è sciolto, in realtà però ha preso spazio l'esperienza delle nuove tribù Zulu, no? Mm-hmm. Anche perché appunto Paolo, mio fratello al contrabbasso, e Roberto Berini alla batteria hanno poi fatto parte di questo ensemble di nuove tribù Zulu, dove abbiamo iniziato a sperimentare in realtà tutta la parte, se vuoi, più popolare. Siamo scesi proprio sulla strada nei primi anni del 90, erano un po' in concomitanza poi a un certo punto con i Cyclone, anche il nuovo tribù Zulu. Si sono sovrapposti come impegni. Sì, a un certo punto sì, perché ci davano comunque siamo scesi sulla strada ai tempi della prima guerra in Iraq, proprio come così, reazione sotto la statua di Giordano Bruno, abbiamo iniziato a cantare, a suonare in maniera del tutto acustica, e quindi poi Nuove Tribù Zulu ha preso questa via, no, della strada, perché appunto sulla strada abbiamo incontrato la gente, abbiamo sperimentato molto la musica popolare, pure lì tante contaminazioni fatte chiaramente in questo caso di musica mediterranea, tarante, Medio Oriente, anche gypsy, perché insomma anche influenze balcaniche. Al tempo io e mio fratello lavoravamo anche come operatori sociali, quello che era il più grande campo rom di questi profughi, appunto, che poi venivano anche scappavano appunto dalla Jugoslavia, no? dalla guerra della scoppiata in Jugoslavia. Quindi tante cose attraversati tutti quegli anni, a loro modo travagliati, come lo sono questi di oggi, insomma, ci sembra. Esatto. Quindi sono iniziati poi per il gruppo anche i primi viaggi in India di ricerca, sono stati molto interessanti, che poi ci hanno portato anche appunto a fare dei progetti belli, addirittura proprio con musicisti gypsy del nord dell'India, in Rajasthan, e a fare un tour anche in India nel 2010. Poi, dopodiché, tornando invece strettamente ai Cyclone, diciamo che alle soglie del trentennale di questo disco, che è stato quello che poi ci ha fatto girare al tempo anche molto in Europa, che al tempo effettivamente appena uscito Effetto The Cyclone Man con la Klang Records di Paolo Fiori e Danilo Leandri e Massimo Bernardi, e girammo molto, facemmo dei concerti nel 1989 a Parigi, al Melkweg ad Amsterdam, in Germania, ricordo dei concerti in Austria, pure a Londra, Dance, un festival organizzato dalla Nervous Records di Roy Williams, che è stato un grande produttore, insomma, di musica psychobilly, con gruppi come Guana Bets, Frenzy, Torment, King Cart. E quindi niente, alla soglia di questo trentennale, che era il 2019 appunto, diciamo che nel frattempo c'erano arrivate delle notizie belle, insomma, di molte persone che continuavano ad ascoltare i nostri primi due dischi. Mm-hmm. E ragazzi, veramente ragazzi, che addirittura si facevano magliette, insomma, fatte in casa con la scritta Cyclone. Mm-hmm. Eccetera. E quindi questo promoter di Milano ci ha chiesto, insomma, di fare un concerto proprio per il trentennale. È stato ristampato poi questo disco, The Fest of the Cyclone Man. Noi all'inizio la prima cosa che abbiamo fatto è vederci in sala prova e vedere quello che succedeva. Mm-hmm. E l'accadimento è stato bello, perché effettivamente ci siamo ritrovati, diciamo, anche forse migliorati, e soprattutto ci siamo divertiti. Una sorpresa positiva, insomma. Sì, è stata una sorpresa positiva. Vi siete accorti che ancora sapevate suonare in maniera selvaggia? No, esatto, c'era, sì, anche quella energia c'era e c'è ancora, e anzi forse anche migliore, perché comunque nel frattempo, diciamo, poi nelle tante altre esperienze musicali che poi abbiamo fatto, insomma diciamo, probabilmente anche molto più a nostro agio, no? Proprio con, mm-hmm, con i propri strumenti musicali, nel mio caso, insomma, anche la voce. Al tempo mi ricordo facevo una fatica incredibile, adesso sempre faticoso il concerto di Cyclone. Mm-hmm. Perché insomma, ci si muove tanto, insomma, esatto, si fatica, è sparatissimo, ritmi molto fra potenti, i più veloci, quindi, poi sì, di tutto il panorama di quello del punk, diciamo, forse esatto, ritmiche del vai, esatto. E quindi niente, abbiamo fatto tutta una serie di concerti in Italia, e poi sempre nel 2019 c'è stata questa cosa molto, questo festival molto bello che fanno a Pineta. Mm-hmm. Adesso è diventato un punto di riferimento per tutta la scena internazionale psychobilly, e quindi abbiamo suonato nel 2019 a Pineta, e è stato emozionante, perché siamo stati accolti molto bene, siamo ritrovati con un pubblico, insomma, veramente centinaia di persone sotto al palco che cantavano a memoria i nostri brani. Quindi è stato bello, soprattutto, insomma, vedere che tanti ragazzi, no, comunque continuavano un po' a cantare queste canzoni, noi avevamo scritto 30 anni prima, quindi all'inizio forse avete pure avuto difficoltà poi a ricordare i testi, no, immagino, insomma. quello è stato talmente poi metabolizzato. Uh-huh. Io appunto poi dopo anche gli anni che ho trascorso anche personalmente in India, dove sono arrivato pure a studiare canto classico indiano, insomma, quindi ero anche in dubbio, no, rispetto proprio al tipo di, cioè, se effettivamente poi tornare, no, anche a lavorare, insomma, su questo tipo di energia, che poi invece in realtà dentro ci mettiamo sempre molta, molta gioia di fondo. Certo. Quindi questo secondo me è un po' una prerogativa anche proprio dei Cyclone, siamo sempre stati comunque molto anche molto autoironici, insomma, ironici, siamo sempre molto divertiti, quindi i testi sicuramente, certo, rimetterli tutti in piedi, ma così come anche i brani, cioè, avevano tra l'altro, insomma, anche delle strutture, considerando il tempo, anche complesse, perché abbiamo sempre molto lavorato anche su stacchi un po' particolari, anche imprevedibili. Le nostre ispirazioni al tempo, tra l'altro, erano tante, tra cui anche Ennio Morricone ci piaceva tantissimo quando abbiamo iniziato a suonare, quindi insomma c'erano tante cose dentro anche questo tipo. Ascolta, di musica. Mi viene da domandarti, no, sentendo anche le tue parole, in qualche maniera, appunto, lo psychobilly, insomma, come tutti i generi di nicchia, così, poi rappresentano delle sottoculture, dei modi poi di essere, di apparire, di, ecco, quanto poi invece proprio l'agghindarsi da psicobilly, l'atteggiamento che si ha sul palco, poi può diventare invece un essere in qualche maniera, una, e quanto il contrario, cioè quanto poi un essere, appunto, poi sei stato in India, insomma, quindi avrei avuto modo pure di riflettere su questo, insomma, e su tante, le tante esperienze che ci hai raccontato, insomma, ti saranno state utili, vi saranno state utili, quanto appunto questo poi invece può influire, ecco, appunto, come dicevi prima, in un genere, per quanto appunto eclettico, per quanto appunto, come proprio dicevi adesso, uno lo può comunque riempire di in qualche maniera contaminazioni, quanto invece quest'essere, questa esperienza poi riesce a entrare effettivamente, riesce a esprimerla poi attraverso uno strumento che è diverso da quelli, dalle altre esperienze che avete fatto. Sì, assolutamente. Ma diciamo che probabilmente quelle, le altre esperienze che sono venute dopo, diciamo, i Cyclone contribuiscono oggi a creare, credo, posso magari dirlo per ognuno di noi, magari un maggiore equilibrio, cioè nel senso, sicuramente si suoniamo io canto in questo caso magari con più consapevolezza, no, di quello che poi stiamo facendo. Sicuramente l'energia dei Cyclone al tempo è stata un'energia tellurica, no, anche per noi, nel senso che comunque abbiamo sempre pensato che la musica avesse questo lo ha poi, no, questo incredibile potere, bellissimo potere di intanto veramente un linguaggio universale che riesce a volte veramente a eludere ogni barriera, no, che sia sociale, politica, ideologica, razziale, diciamo, cioè la musica può avere questo, e questo chiaramente è avvenuto poi, l'abbiamo sempre compreso andando avanti poi anche nelle altre esperienze. Certo, sicuramente quella dei Cyclone è stata un'energia dove abbiamo dato tanto in termini proprio di ribellione, se vuoi proprio di quegli anni, no? Proprio di esplosione anche rabbiosa, insomma. Mm-hmm. E, oggi sicuramente diventa, stare sul palco con i Cyclone diventa una vera e propria performance, no? Dove comunque sicuramente si ha un po' più di consapevolezza rispetto a proprio all'energia che poi si sprigiona. Diciamo, forse al tempo c'era un po' meno consapevolezza, ecco. Più così, immediatezza post-adolescenziale, sì, insomma. Sì, esatto, magari non suonavamo, eravamo dentro al genere, sicuramente lo vivevamo sicuramente anche di più, no? Sotto certi aspetti, perché è chiaro. Proprio eravamo quello, no? Certo, l'atteggiamento adesso... che diventa poi una invece un'essenza, no? un essere proprio così. Sì, esatto, cioè diventa proprio veramente un essere in quel modo, anche se poi noi siamo sempre stati molto aperti, cioè per dirti che in effetti poi noi facemmo questo primo disco nel 1989, The First of the Cyclone Man, però uscì, andò benissimo, quindi facciamo concerti veramente da nord a sud in tutta Italia, e poi queste esperienze che ti dicevo all'estero. Uh-huh. E, però poi sempre nell'89, in quel famoso giro che facevamo a Parigi, chiaramente incontrammo poi la musica che si respirava a Parigi, e quindi suonando lì al G-Bus incominciamo a sentire queste atmosfere di Mano Negra, di Negro Expert, questa apertura anche di questa contaminazione, diciamo, razziale, proprio etnica, esatto. Razziale sono parole terribili, però insomma chiamiamola così, per capirci, multiculturale, i mondi che si mescolavano, no? Sì, quindi sì, già sì, diciamo il nostro secondo disco dei Cyclone è molto più vicino a qualcosa di anche di Mano Negra, se può, insomma, perché comunque già sentiamo quelle cose là. C'era un gruppo in Francia al tempo, non so se l'hai mai ascoltato, ci sono ancora, si chiamano Washington Dead Cats. Erano un gruppo, anche loro, molto particolare, facevano psicobilly, loro però di Parigi, di Parigi, comunque francesi, e anche loro molto interessanti. facevano però chiaramente un qualcosa che diciamo si allontanava molto, diciamo, cioè, dalla saltavano ancora un altro ponte, diciamo, saltavano ancora un altro. Sì, esatto, molto diversi, diciamo, da tutta la linea inglese, diciamo, del secondo inglese. Quindi ecco, diciamo che già il secondo disco dei Cyclone in Zone, infatti, che poi uscì nel 91, era già molto meno psychobilly standard. Dopodiché, appunto, arrivarono le nuove tribù Zulu. Quindi questa è stata un po' la cosa. Vogliamo ascoltare, diciamo, sempre... una cosa dal primo disco. Te sì. Mi hai sottoposto tre tracce, io direi sì. Di iniziare dalla prima e poi magari fra 3 minuti e 19 quanto dura ci risentiamo. Okay. Poco. Rimani in linea. Va bene. Certo, sono qua. Ci sei 23-27 ecco, minuti primi. Allora ecco, abbiamo ascoltato Freddy's Back. Sì. Allora, proprio nel preparare così questa chiacchierata di questa sera, tu mi hai detto sì, ti mando io. Ho detto vabbè, ma perché non trovo in rete materiali? Dici beh, insomma, non tanto, tutto sommato. Però insomma mi sembra che invece ci sia da parte vostra, sia per appunto la pubblicazione dei dischi storici, ecco, sia poi per la riedizione del primo disco, un amore per la plastica, insomma, per il vinile, per il pezzo di plastica inciso, tagliato, che riproduce il suono. Qual è appunto poi in realtà, anche dopo tutta, alla luce di tutte le esperienze importanti, insomma, e di tutti i giri che avete fatto nella vita, qual è il vostro atteggiamento rispetto alla fruizione moderna attuale, insomma, dei pischelli della musica, e qual è il vostro atteggiamento invece verso quella che è la nostra generazione, insomma, quella che ascoltava e andava a comprare i dischi, lì andava, certo, a comprare usati, andava a registrare le audiocassette, insomma, tutta quella storia lì che conosciamo, certo, almeno noi, certo, altri del, come si dice oggi, insomma, i boomers, o come diavolo ci chiamano, insomma, vai. Certo. Ma guarda, cioè, appunto, diciamo che chiaramente noi veniamo da questa generazione di, che quando abbiamo iniziato a suonare effettivamente era l'86, quindi figurati. Però come hai detto te, c'era sicuramente la cosa molto bella era la ricerca, appunto, la ricerca in cui effettivamente nessuno ti poteva dire più di tanto su alcune cose, e quindi le cose effettivamente dovevi andarle a cercare, dovevi appunto fare una ricerca. E io mi ricordo appunto che partivo spesso per Londra, in questo caso, e tornavo con carichi di dischi che qua non si trovavano, oppure appunto magari, ecco, queste scarpe iconiche, no? Tipo le Creeper o le Dr. Martens, no? Sì. Che poi veramente non so come facevo a farsi carichi, perché adesso sarebbe impensabile. E però per quanto riguarda il disco, sicuramente noi quando abbiamo iniziato nell'89, quando abbiamo pubblicato The Fest of the Second Man, ancora il CD non c'era, è arrivato appunto dopo, quando abbiamo fatto il 91 Second in Zone, ancora il CD non c'era. Nel 90, questo è stato la band del CD, ma 93, sì, 92, sì, 93. Sì, sì, sì, ecco, sì. I primi esperimenti anche a fine anni 80, ma praticamente non li faceva nessuno perché erano costosissimi, insomma, quindi. Esatto, quindi, cioè, adesso chiaramente, diciamo, andando avanti anche noi con le altre produzioni, è chiaro che ci siamo dovuti adeguare anche ai nuovi mezzi. Sì. Quindi, però, come nascita nostra, siamo il classico gruppo che è nato appunto veramente in sala prove, ore e ore a provare, a registrare proprio con i Walkman i brani, che poi appunto dovevi andare a registrare mai in uno studio, uh-huh, professionale, che poi, come poi è capitato appunto per il primo disco, oppure magari prima facevi dei provini, no? Che comunque erano costosi anche questi provini, perché, cioè, dovevi anche per capire effettivamente com'era, no? Che cosa succedeva. Oggi chiaramente con il mondo delle schede audio, dove con un computer effettivamente la scheda audio anche puoi fare abbastanza miracoli. Commerciale, però, insomma, fai delle cose che all'epoca, esatto, te sognavi, insomma. Sì, appunto, quindi. Però ecco, il fascino di quel periodo era veramente che dovevi un po' inventarti, no? Anche da un punto di vista di genere, perché oggi anche i ragazzi sono, diciamo, almeno per chi è interessato a fare certi percorsi, ci sono tante scuole, no, di musica, che comunque insegnano anche determinati generi musicali che invece al tempo nostro non c'erano. Cioè, al tempo nostro effettivamente quando c'era o il conservatorio, appunto, oppure una strada, scuole di musica, magari, certo, di stampo magari jazz, no? Che va, sì, benissimo, sì, per, sì, carità, sì, sì, molto interessante, però ecco, al tempo, ecco, era difficile che qualcuno si mi ricordo trovava. A Monteverde, no, c'era una che c'è suonai, beh, insomma, le uniche lezioni di musica le presi, come si chiamava, non ti ricordi? A Monteverde c'era proprio scuola di musica, c'era popolare, mi pare, di Monteverde, forse sì, una roba, no, del genere. Tu dici forse da Olimpia? Sì, so, sì, a Don Olimpia, sì, che poi andavano in giro in realtà, poi appunto i vari, certo, certo, no, ma infatti, quindi diciamo che la cosa bella è che, diciamo, questo genere qua musicale ha mantenuto molto questa fascinazione verso il vinile, tant'è vero che i gruppi che oggi pubblicano fanno sempre delle edizioni in vinile, più che CD, fanno anche CD, però prettamente ormai vinile. Oggi come oggi, certo, c'è molta preoccupazione, chiaramente, per quanto riguarda in questo in generale nella musica, no? Quello che sta accadendo. È chiaro che questa, la cosiddetta musica liquida, oggi mette a repentaglio la produzione stessa comunque dei lavori, perché la musica suonata, se vuoi, perché poi alla fine te almeno che so, la trap eccetera, si produce tutto, appunto, come dicevi te, con una scheda audio, con un telefono alle volte. Non c'è bisogno non solo di saper suonare, che quello anche, cioè, i punk notoriamente non necessariamente dovevi saper suonare, che veniva appunto da quel mondo lì, poi lo facevi, no, imparavi, infatti, eccetera eccetera, però insomma gli inizi te buttavi e basta, insomma, quella era la storia. Io mi ricordo che stavo al Virgilio, quando facevo il liceo, sì. Arrivò questa cazzetta, appunto, con dentro Bloody Riot, veramente, queste cose, capito, fantastiche, cioè, nel senso che cose che oggi c'era molta verità. Ecco, la cosa che mi piace ricordare di quel periodo, ricordo che effettivamente suonavano molte meno persone, chiaramente, in giro, però veramente c'era veramente una verità e nei gruppi, e anche nelle persone che poi autenticità frequentavano la scena, avanti con fatica, gli spazi erano pochi, te li dovevi ritagliare, appunto, i centri sociali, c'era un certo tipo di locali, però c'era veramente tanta ricerca e anche in qualche modo veramente era una forma di dire no a determinate cose. Oggi c'è un appiattimento culturale sicuramente, insomma, devastante, ma sicuramente anche una formattazione a livello culturale che è avvenuta anno dopo anno, ed è avvenuta anno dopo anno sempre più evidente, no? I social hanno, anche se sono tra virgolette un mezzo, anche molti dicono formidabile, di connessione, in realtà sono anche un mezzo formidabile per annientare comunque, diciamo, il contatto umano, la socialità, quella sì. Poi adesso, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, insomma, stiamo veramente in un momento di passaggio molto grande, epocale, no? Certo. Da cui prendere le misure, insomma, comunque. Ma insomma, comunque, sì. alla fin dei conti, rispetto a questa modernità, tutto sommato va bene o non va bene che i ragazzi continuino a suonare anche con queste metodologie, insomma, va bene o non va bene, magari è una domanda sbagliata, insomma, comunque, che approccio che... hai? L'approccio che penso, a me mi è sempre rimasto impresso una frase dei Pink Floyd, quando mi ricordo questa intervista, non mi ricordo nemmeno dove l'avevo vista, dove questo giornalista chiedeva ai Pink Floyd, diceva, voi suonate questa, utilizzate i sintetizzatori e la musica elettronica, dice, così come avete aperto una via, però adesso, no, così come tanti altri ora stanno utilizzando, e loro dicono, sì, ma noi, però noi siamo noi, senso, quindi, ma questo voleva dire che effettivamente credo che si possono anche utilizzare, no, le nuove, i nuovi mezzi, le nuove tecnologie, però poi, appunto, bisogna vedere la personalità, la persona, che metti dentro, certo, no? Anche certo, su certe cose, certo. Quindi la personalità significa anche contenuto, però, certo. La cosa che a sensazione ho è che questi contenuti ultimamente vengono un po' a mancare, ma anche il fatto di non so chiedersi effettivamente del perché poi si fa musica oggi, certo. Un po' chiedersi, ma questo forse perché... però non è colpa del genere musicale o ma appunto è una situazione più grande di contesto sociale, politico, eccetera eccetera, no? Probabilmente, assolutamente, cioè, nel senso che il contesto sociale e politico è stato in qualche modo messo all'angolo, un certo tipo di contesto sociale politico, l'altra volta appunto in un'altra intervista che appunto parlavo con Mauro e con Marta, ho parlato ma chiaramente, insomma, credo, insomma, per chi ha vissuto quegli anni, appunto degli anni 90 e poi è arrivato fino alle soglie del 2000, comunque ecco, per la mia generazione comunque Genova è stato un passaggio, certo, tremendo. E alla luce di oggi, appunto di quello che vedo oggi, che vediamo oggi, capisco perché è stato così tremendo, se capisco poi effettivamente quello che è accaduto sempre di più, perché comunque lì c'era una possibilità che è stata, insomma, sedata, se vuoi, no? È stata, sì, un po' annientata, e da lì è iniziato tutto un lavoro molto preciso. Anche oggi, secondo me, anche musicalmente si vede un po', parlo però di Italia in, sì, particolar modo, sì, quello che sento musicalmente, poco, no? Di, appunto, di contenuto, mi sembra veramente di, penso che comunque ci sia una devastazione portata anche dalla cultura del berlusconismo, insomma, tutti questi anni, certo, è proprio quella generazione lì, sì, molto, molto vuota, se vuoi, no? c'è poco, oggi forse vediamo quei risultati, capito? Vediamo proprio il risultato di tutto questo lavaggio, no, delle menti. Io personalmente con la 9 Tribù Zulu mi sono ritrovato nel 2009 a dicembre pure al Nobby Day, appunto a suonare, no? A metterci la faccia, poi dopodiché sono partito anche 5 anni in India, ma perché avevo proprio voglia di sperimentare altre cose, ero abbastanza nauseato. Però ecco, quello che abbiamo vissuto in questo paese ha del, cioè, credo veramente del terribile allo stesso tempo, quello che stiamo vivendo, affascinante, perché siamo un esperimento veramente sotto tutti i punti di vista, dico, insomma, quello che stiamo vivendo, magari lo potessimo semplicemente, esatto, quello che stiamo vivendo, esatto, quello che stiamo vivendo, capito? È ancora più terribile, no? Cioè, proprio appunto sta diventando sempre di più una società del super controllo, sempre di più comunque, forse omologazione e falso ribellismo in qualche maniera, esatto, un surrogato di ribellismo. Esatto, bravo, esattamente, sì, questo è il punto, appunto, omologazione, sì, e proprio quindi al 100%, e falso ribellismo, sì, cioè, mi sento di dire di sì, ecco perché ti dicevo, c'era un po' una verità, c'era al tempo, c'era un po' una spinta di verità che non sapevamo assolutamente dove ci doveva portare, non lo sapevamo. Però effettivamente c'era una verità nelle persone, poi nel bene e nel male, certo, non certo. Perché abbiamo fatto tante cazzate, insomma, ci piace, sì, no, rivendicarci, beh, anche e prendersi la responsabilità di tante storie che, insomma, potevamo evitare. Quelle sono tante, perché nel senso, cioè, bisognerebbe un po', parlando anche di musica, arrivare a capire appunto come mai qua non si è riuscito a creare ancora, diciamo, uno zoccolo duro, no? Anche del, se vuoi, della musica in Italia, sì, sì, certo, che diciamo un panorama un po' più scintillante, insomma, come magari c'hai appunto in Germania, in Francia, in, esatto, tutti i posti, esatto, d'Europa, un pochino più dinamico, esatto, sì, esattamente. Vogliamo, esatto, ascoltarci, comunque. No, se vuoi continua, però io ti proponevo, no, dai, ascoltiamo qualche, sì, cosa, dai, no, Cyclone Shock, vai, Cyclone Shock è il primo brano, okay, al secondo brano, sì, del nostro disco. Don't understand me. Bang my wool. I'm sexual. rieccoci di nuovo in onda. Eccoci qua. Ci siamo. Dai. Allora, invece ti dico un'altra cosa, ti pronuncio un'altra frase che è quella, vabbè, pandemia 2019, Rock the Sunset Ruins, che è una partecipazione in cui così su sto vinile apparite e cantate in italiano. Dove stava questo qui? Aspetta, dimmi un po'. Rock the Sunset Ruins. Disco con Simone Lucciola e loro, insomma. Ma che brano c'è lì? Scusa, perché non. Che è Fuga fuori Roma, per caso? Sì, bravo, bravissimo. Ah, ecco, sì, certo, certo. Perché, insomma, fino ad ora abbiamo ascoltato e avete cantato sempre in inglese, almeno sì, nella versione Cylon, no? Esatto. E invece esce certo, fuori. Perché, sì, perché poi a un certo punto i Cyclone per il terzo disco ecco perché infatti vi dicevo che c'è stata sempre una nostra ricerca, no? Perché a un certo punto effettivamente il gruppo si era staccato poi dal genere Psychobilly. Mm-hmm. I nostri ascolti erano diventati, appunto, passando per Mano Negra, Negra Svert, ci piacevano al tempo i Red Hot, ascoltavamo comunque i Public Enemy, cioè veramente da musicisti eravamo andati avanti e ci piacevano tante cose, quindi sempre nella contaminazione abbiamo fatto questo terzo disco in italiano che uscì con la banda Bonnò, non so se ti ricordi questa etichetta, sì. Stava proprio qui negli anni 90, sì. Esatto, in zona Nomentana, no? Sì. Uscimmo, e tra l'altro uscirono con la banda Bonnò, mi sembra che i Fratelli di Soledad, c'erano un po' di gruppi della scena, diciamo, attuale, sì, esatto, di allora, questo, insomma. Esatto, e facciamo quindi questo terzo disco proprio come Ciclone. Uh-huh. E con una serie di brani in italiano, e Fuga fuori Roma in realtà fu un brano che non trovò spazio in quel disco, e quindi, insomma, sì, mi ha fatto piacere darlo. Ci ha fatto piacere, certo, invece darlo per questa compilation. Un brano particolare, sì. Un brano particolare in che cui c'è un eco, diciamo, ancora Psychobilly, però, appunto, come dici te, c'è un cantato invece, un quasi scandito, no? Quasi rap. Sì, esatto, sì. Molto più, cioè, comunque ascoltavamo al tempo anche molto hardcore, insomma, ci facevano in Negazione, cioè tante cose, poi, insomma, si sono evolute. Ma mantenendo comunque la formazione quella tipica con il contrabbasso, oppure usando anche il basso elettrico in quella? Paolo incominciò a utilizzare anche un po' il basso. Mm-hmm. Però anche tenendo sempre il contrabbasso. E poi dal secondo disco, ecco, questa è la cosa importante rispetto al primo disco, inserimo anche un sassofono con Massimo Diodallevi. Che tra l'altro ho un fratello, perché poi gli ho fatto pure molti dischi con le Noi di Buzzulu, e quindi Cyclone Zone, quello del 1991, uscito sempre per la Klang Records, e anche questo qui del 1994 che uscì con la banda Bonnò, si chiama Pasto Crudo, questo album, questo CD, e c'era anche il sassofono, quindi la formazione era la stessa, chiaramente con delle sonorità che, insomma, avevano poco a che fare con lo Psychobilly, col primo Psychobilly che suonavamo. Infatti anche per questo, a un certo punto, abbiamo declinato e ci siamo dedicati totalmente a Nove Tribù Zulu. La speranza dei Cyclone, appunto, si era un po', era finita nel 94, poi, insomma, verso il 95, poi, mi sembra, abbiamo smesso. 94 uscì il disco, 95-96 poi decidemmo di questo terzo disco in italiano, insomma. Sì, questo disco in italiano che suonava più romano, perché appunto il Ciclone tanto ci chiamavano, certo, comunque probabilmente negli anni 80. Assolutamente. Sì, infatti, diciamo sempre, per gli amici siamo i Ciclone. Ascolta, per i feticisti come me, al Forte, domenica 30, troveremo un banchetto con un po' di materiale di questi che c'è? Non c'è? È rimasto qualcosa? Ci sono? Guarda, i dischi, quelli che appunto hanno ristampato, ha ristampato la Klang Records, l'etichetta, la Klang Records, quindi quelli ne abbiamo, ci hanno anche delle magliette con la scritta Simon. Poi ecco, per il futuro, cioè, speriamo, abbiamo dei brani nuovi, adesso stiamo capendo un po' okay, come quando registrarli, però sì, sicuramente insomma, ci sarà qualche cosa del merchandising, insomma, di Simon per il concerto. Ma stavi anticipando qualcosa sul futuro, ancora tutto molto nebbioso oppure si sta così, oltre la coltre di nebbia? Guarda, senso, diciamo che i Simon sono una buona occasione anche in questo momento, più che altro per noi, per me stessi appunto, non perché poi alla fine, quando poi abbiamo iniziato, il genere si è sempre rifatto un po' appunto sei con Billy, no? Proprio anche dal film, no? Di Hitchcock, Psycho, no? Quindi ha sempre preso anche diciamo le tematiche dei film horror oppure dei B-movies, no? Sì, certe sì. Atmosfere, ma anche per come modo, cioè, per poter dire sempre delle cose, no? Perché effettivamente certi film anche di questo genere poi comunque diciamo, certo, altre sono cagate, però molti, ma anche di B-movies, molte volte John Carpenter, per dirne uno, insomma, sì, sono anche denunce sociali, no? Vere e proprie, no? Certo, so, dei film molto interessanti, certo. Insomma, che poi sottofondo, cioè, andando poi a vedere le tematiche, i contenuti erano attacchi insomma a un certo tipo di società, insomma. Quindi diciamo che ecco, poter continuare anche con un nuovo disco dei Cyclone suonando appunto Second Billy, stiamo valutando questo nuovo disco perché abbiamo dei brani nuovi, quindi non so dirti quando uscirà, ma ci stiamo lavorando. Una cosa che faremo sicuramente per il concerto del 30 giugno a Forte, faremo dal vivo questo brano che abbiamo riarrangiato, che è Deep Red, appunto Profondo Rosso, l'ho suonato dai Goblin nel film, sì. Che dovrebbe trovare spazio anche in questo nostro nuovo lavoro, quindi diciamo una version della versione progressive, sì, sì. Rock, sì, degli, sì, degli, sì, anni, la 70, la versione ultra psychobilly di Profondo Rosso. Bene, sì, bene, sì, sì. Va bene. Quello è un'anticipazione. Va benissimo. Allora rimaniamo, perlomeno speriamo di aver così instaurato, stuzzicato la curiosità di ascoltatrici e ascoltatori della radio. Sì, io saluto e che ringrazio. Sì, io sì, se non hai altro che ti viene in mente da aggiungere. Chiuderei così l'intervento, la piacevole chiacchierata con te, e ci diamo, grazie, appuntamento, lo vogliamo ripetere per l'ultima volta? Sì, quindi saremo Cyclone alle ore 22 del 30 giugno, domenica prossima 30 giugno al Forte Prenestino, in questa serata molto articolata appunto di Futopia, molto aspetta te la faccio, rapporto vostro col cibo, dai, te la butto là, tanto te l'ha già fatta Mauro con Marta, credo, no? Il vostro no, aspetta, questa non abbiamo parlato, però in realtà abbiamo parlato sì effettivamente anche di cibo consapevole, sì, insomma, quello, no, di consapevolezza anche di tante cose, insomma, rispetto all'ambiente e soprattutto anche al cibo. Ma il rapporto, io personalmente appunto ho... No, mi aspettavo che mi rispondessi facendo Psycho Billy, noi siamo cannibali, insomma, però... Invece diciamo che effettivamente ho anche trascorso dei momenti abbastanza un po' più vegetariani, proprio perché poi nei miei trascorsi indiani, certo, almeno in è India, anche difficile essere carnivori, insomma, è quasi impossibile. Esatto, però... Credo che sia comunque importante avere secondo me il giusto approccio al cibo, ma soprattutto su quello che si sente rispetto appunto quindi pure qua parliamo sempre di consapevolezza, di scelte, no? Sì. E quello è importante, però senza anche forzature, secondo me. Mm-hmm. Io anche in India ho visto che anche certe diatribe sono molto mentali qua di tutto il lato occidentale, no? diciamo che sono meno evidenti. Io penso che sia importante avere un rapporto sano, ma soprattutto anche non con il cibo, ma soprattutto anche non forzarsi, no, di essere quello che non si è, ma casomai se si vuole fare dei cambiamenti anche sapersi aspettare, cioè lasciare che le cose accadino, no? Anche farle accadere, però anche aspettare che poi questa cosa sia veramente consapevolezza, che non ci siano forzature, no? Certo. Sto parlando appunto se uno magari se una persona più mangia carne o pesce oppure è vegetariana, penso che bisogna avere un giusto atteggiamento di coscienza del momento, di quello che sia veramente. Certo. E le cose poi accadono. Bene, bene, bene. In termini anche di trasformazione, di evoluzione personale. Sì, mi sembra un buon punto di partenza, un buon punto di osservazione, ecco, se vuoi, dell'argomento. Va bene, allora dicevamo 30 di giugno dalle ore 19 al centro sociale Occupare Forte Prenestino, Futopia e via via i vari interventi della serata. Credo che ci stanno chiamando adesso in diretta e fra poco risponderemo. Mondopane, la piccola grande rivoluzione del grano, rito, mito, trasformazione e resistenza con Francesca Camilla D'Amico e Sebastiano Giovannucci, un progetto di ricerca teatrale e musicale a cura di Bradamante Teatro, e introducono Marta Scibop di Radio Onda Rossa e Mauro Serafini, il professor Mauro Serafini dell'Università di Teramo. Vediamo, guarda, facciamo una cosa. Ti salutiamo, tanto continuiamo noi e così possiamo pure rispondere. Grazie, Franco, grazie. Grazie, a presto e a sabato. Ciao, ciao, ciao, ciao, a domenica. Ciao, ciao, ciao, ciao. Un abbraccio, ciao. Allora chiediamo a chi ci abbiamo attaccato dall'altra linea, non avevamo il dono dell'ubiquità, se ci richiama cortesemente adesso siamo in grado di rispondere. Nel frattempo noi Cyclone ci risentiamo, Jungle Cat. Ball. long for a trip, I don't need no grip, I'm taking one more ride. Way out there in the prairie air, I guess it's in my hide. For the clickety-clack of the railroad track is calling. If a man could know where the Santa Fe goes when she gets under steam, and the big loud bell at Bond's farewell could hear her whistle scream, he's bound to go where there ain't no snow a-falling. One more ride. One more ride. I miss the gloom of the prairie moon that seemed to know my name, and the tumbleweed where the prairie dog feed, I miss them just the same. They're all a part of a song of heart I'm saying. I recall a tune that I sang to the moon, and it seemed to make it smile. And I rode away at the close of day, and I stayed so long a while. But I long to be where the memory is ringing. One more ride. One. As the years go by, I wonder why I long to leave my home and to hit the trail of the iron rail away out there alone. But my heart would sigh till I know that I am leaving. If I don't come back on a one-way track way down from Mexico, you can find me there or any old where that a tumbleweed will grow. It's goodbye now, you'll never know how I'm grieving. One more. One more ride. E quindi Cyclone, Jungle Cat, dal primo lavoro. E poi siamo passati, well, now I heard that you've been a questa magnifica voce. Really, I don't mind. I know you try to block my, che è quella di Johnny Cash. A lot of the time, well, the mean things you said don't make me feel bad, cause I can't miss a friend. One more ride. I've got in una edizione ristampata dei grandi classici. In trouble, when I call him he will answer my prayer. When I'm burdened with a load. Degli anni 50 e per l'esattezza dei Fabulous Johnny Cash. Well, you may scorn me, turn your back on me. God's got his arms wrapped all around me. I've got Jesus, and that's enough. That's enough. That's enough. You know, there's been a lot of time. E quindi andiamo a ricordare l'appuntamento che abbiamo così annunciato in maniera più completa. Trovate peraltro su www.ondarossa.info, andando sulla colonna a destra del sito ci trovate tutto quello che è necessario per sapere tutto. Di Futopia per Radio Onda Rossa, teatro, cibo e musica. Futopia, nutrire la conoscenza, scritto con le giuste maiuscole, le giuste parentesi. Evento a sostegno di Radio Onda Rossa, domenica 30 giugno 2024 dalle ore 19, centro sociale occupato e gestito Forte Prenestino, via Federico Dalpino 169 Roma, ore 19, racconto teatrale, musica, Mondopane, la piccola grande rivoluzione del grano, rito, mito, trasformazione, resistenza, così con Francesca Camilla D'Amico e Sebastian Giovannucci, un progetto di ricerca teatrale e musicale a cura di Bradamante Teatro, che è una compagnia di Pescara. Introducono Marta Scibop e il professor Mauro Serafini di Unitera. Ma Marta Scibop è bella, Martis, che dobbiamo dire che sei da radio? No, non serve. Una delle colonne portanti di Radio Onda Rossa. The cold wild wind will come. A alle ore 20 cena regionale a base di ricette V2 vegan vegetariane by Cuokic, Cuoc, come non so come, tutte le declinazioni senza genere, con tutti i generi o con tutti i generi mischiati come vi pare. Del corso di scienza e cultura gastronomica per la sostenibilità dell'Università di Teramo alle 21:30. Ora stanno a suonare, diciamo, per un'altra emittente web con cui peraltro abbiamo collaborato in più di un'occasione, DJ Set con Javan Search and Destroy. Ricorderete senz'altro, i più attempati come noi altri, che Search and Destroy cominciò proprio da questi microfoni, e quindi un ritorno in qualche maniera. Concerto con Cyclone, e ne abbiamo parlato adesso con Andrea, storica band Psychobilly da Roma, dalle 22:30 in avanti. Questo è lo Psychobilly un po' più acchittato, versione California, Tiger Army. Ghost Tiger Eyes, da capo. Wonder Alone, ho sbagliato. Accidenti. Wonder Alone. If 1981. Psychedelic Jungle, e questi ovviamente erano i Cramps, Goo Goo Mac. This is a public service announcement. E la fase più rockers dei Clash, quella finale. A proposito di chi diceva appunto che non c'è politicizzazione nel genere. Certo, i Clash partivano un po' al contrario, però Rockers poi tutto sommato lo sono sempre un po' stati. E quindi Know Your Right da capo, Onda Rossa 87.9. E chi chiamava può richiamare senz'altro, forse aveva qualcosa di importante da dirci, speriamo di no da un certo punto di vista. This is a public service announcement with guitar. Know your rights. All three of them. Number one, you have the right. dalla Germania. Un'altra delle icone, come dicevamo prima, sempre contaminati. La cornice è quella, ma poi chi gioca più da una parte, chi più da un'altra, insomma, il suono poi è sempre diverso, sempre distinto fra le varie band. E diciamo, questo è il suono tedesco dei Mad Sin. Sell your soul, vendi la tua anima. Da capo, Mad Sin. That's not possible, 'cause folks can kill with a blade. I said, feelings are zone. Minuti dopo la mezzanotte, Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza da Roma e provincia, in FM invece, in DAB, da Terni e da qualche ora anche da Viterbo. In streaming ondarossa.info. Questi erano i Social Distortion e come ci piaceva dire un tempo, avanzi de galera. Let it be me, Magnus. Quiet, E per chi così equivoca che forse lo Psycho Billy è un genere prettamente maschile e invece a contraddizione di tutto ciò, Clockwork Psycho dalla Slovenia con la loro ruggente frontman. E suonano anche loro per Radio Onda Rossa e proprio al Forte Prenestino. Today I meet the maker. Clockwork Psycho a Radio Onda Rossa. Dai. più. Dopo mezzanotte, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza da Roma 0649 17 50, recapito telefonico, e poi in DAB da Terni e Viterbo. E poi in streaming, e che ve lo dica fa, no, proprio che ve lo dica fa, al filo della notte non potete non conoscere i Bomb Machine. La luna era un osso e la notte la strada dei morti, prima e poi siedi intorno al fuoco. La luna era una palla gialla che galleggiava testa dei liquori. Quest'ultimo era sotto questo cielo nero. Invece la strada dei morti, tratto da Sottoterra. Sa che non lo troverà mai più. C'è sangue sullo specchio. C'è... Ci spostiamo a La Spezia. Per lei non canterà più. La piccola capitale, la grande capitale italiana del rock and roll. La notte fece mille promesse. Don't give a fuck. L'inverno che ti lascia al freddo. P.U.S. La notte era un viscido serpente che iniettava il suo veleno nelle vene. Bacio la luna. Prima quindi del terzo lavoro per Cyclone, e ormai tradotto in Ciclone, 1995 se non andiamo errati, ma riprodotto in Docs Rock the Sunset Ruin, Mama Roma Cats del 2020. Fuga fuori Roma, da capo. Ciclone in questo caso. We'll be right back. sempre Rock the Sands in Ruin. Questo è Human Race, My Gang. Anche qui da capo per forza, non ci si parla sopra. Onda Rossa 87.9, dai. Calma, calma, calma. 57 minuti dopo la mezzanotte. Siamo arrivati, sì. Siamo arrivati a conclusione di questa notte. Avete ascoltato la lunga chiacchierata che abbiamo fatto con Andrea De Saclon. Un racconto lungo oltre 30 anni. Che abbiamo cercato di sintetizzare appunto in una oretta, un po' di meno, di chiamata. E abbiamo concluso con Velester Flufluns. Dal 2024 avanti Cristo. Il loro lavoro presentato qua negli studi di Onda Rossa. Vi ricordiamo perciò l'appuntamento con Futopia, teatro, cibo e musica per Radio Onda Rossa. Domenica 30 giugno 2024 a partire dalle ore 19. Qui non è che ci sbagliamo l'anni, ci sbagliamo i decenni, gli eoni, i lustri. Appunto, siamo arrivati. Le trasmissioni di Radio Onda Rossa in diretta finiscono ora. Vi lasceremo in compagnia della compagna automatica Sonata, che vi terrà compagnia con le repliche pescate un po' a casaccio dai podcast della radio, ma no, insomma, hanno un loro ordine, hanno una loro logica, basta saperla trovare e cercare. Condite dalle bizzarre selezioni musicali della compagna automatica Sonata. Si riprenderà in diretta con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa, la rassegna stampa cittadina. In redazione della mattina fino all'incirca verso mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo si continua con la replica di Impatto, e poi dalle 14 alle 15 tutta scena cinema. Attica Blues oltre la Black Music dalle 16 alle 17 e poi La Schiena del Soul, che confidiamo domani parlerà ancora di Futopia, ma non sappiamo onestamente. Si prosegue con Tabula Rasa dalle 20 alle 21.30, poi dalle 22, ma molto molto larghe, I Cuginetti di Apostasi a chiudere il palinsesto del giovedì. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti. Le varie sanzioni amministrative che ci costringono a risiedere, a lavorare, a studiare dove vogliono loro. Bella a tutti e a tutti, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. share our dreams, I'll share our dreams under a communist.